sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. A man touched down on the moon. A wall came down in Berlin. Yes, we can. Un uomo ha messo il piede sulla luna, il muro di Berlino è caduto, il cambiamento è arrivato. Sono parole del nuovo presidente degli Stati Uniti. Barack Obama ha conquistato 349 grandi elettori e ha vinto anche in Florida e Ohio. I democratici avanzano anche al Congresso. La collaborazione con gli Stati Uniti aumenterà, dice Berlusconi, per Veltroni è una vittoria che può cambiare il mondo. Il governo israeliano fa sapere, le relazioni fra i due paesi hanno un futuro positivo. La Russia non si ritirerà dal Caucaso, fa sapere intanto il presidente russo Medvedev nel primo discorso alla nazione. Realizzeremo trafori alpini del corridoio 5 anche con l'uso della forza, annuncia il presidente del Consiglio, e sui trasporti dice stanzieremo 13 miliardi di euro per i mezzi meno inquinanti. Un ubriaco travolge con la sua auto a una fermata dell'autobus, 13 persone sono feriti. Dopo la Campania e la Sicilia il caso Puglia, finiti i fondi per le strutture sanitarie convenzionate. E dunque Barack Obama è il 44esimo presidente degli Stati Uniti. Formalmente entrerà in carica il 20 gennaio, ma i cittadini hanno deciso votando i cosiddetti grandi elettori. Buongiorno da Anna Migliorati. Ed Alessandra Tedesco. Una vittoria dunque annunciata dai sondaggi che fino all'ultimo hanno visto il candidato democratico in vantaggio rispetto al rivale McCain, ma Obama non l'ha mai data per certa questa vittoria. Un po' per scaramanzia, un po' forse perché temeva il cosiddetto effetto Bradley, ossia rilevazioni favorevoli smentite poi dalle urne per il fattore razziale. Ma andiamo subito a vedere i dati concreti. Valentina Furlanetto ha seguito gli scrutini praticamente ormai ultimati. Cosa è emerso? Cosa dicono i dati? Sì, come dicevi, gli scrutini sono quasi finiti. Al momento solo due stati, ossia il Missouri e il North Carolina, sono ancora in bilico. Ma l'esito è comunque certo. Barack Obama ha ottenuto almeno 349 voti dei grandi elettori, quando gliene bastavano 270 per arrivare alla vittoria. McCain si è fermato a 163 voti. Obama ha convinto anche gli stati considerati incerti. Ha vinto in Florida, Ohio, i due stati che avevano portato Bush alla Casa Bianca nel 2000 e nel 2004, e poi ha conquistato la Virginia, dove l'ultima vittoria democratica risaliva al 1964. Si è aggiudicato anche il New Mexico, tanto quanto mai incerto, perché nel 2000 aveva votato Gore, mentre nel 2004 aveva scelto Bush, ma solo per un punto. Vittoria storica anche in Colorado, dove nel 2000 e nel 2004 aveva vinto Bush. Lo stato ha cambiato colore, passando dal rosso, simbolo del partito repubblicano, al blu dei democratici. E anche l'Indiana è uno degli stati considerati feudi repubblicani. Nei sondaggi era in testa, anche se di poco, McCain. Invece, a sorpresa, anche qui ha vinto Obama. Valentina, come dicevi, dunque, Barack Obama ha vinto anche in stati chiave, insomma, sono stati decisivi per la sua vittoria. Ma ricordiamo che gli americani hanno votato non solo per scegliere il nuovo presidente, ma anche per rinnovare il Congresso. In questo caso, come sono cambiati gli equilibri politici? È proprio così. Nelle elezioni di ieri veniva rinnovato anche un terzo del Senato e l'intera Camera. Al Senato i democratici hanno conquistato almeno altri 5 seggi, ma non sono riusciti a raggiungere le 9 vittorie necessarie per arrivare a quota 60 senatori, quota che avrebbe consentito di ottenere la maggioranza al Senato e quindi di blindare in un certo senso la Camera alta. Alla Camera, dove i democratici potevano già contare su una maggioranza di 235 voti contro 199 dei repubblicani, sono previsti ulteriori progressi con una conquista probabilmente di altri 25 deputati, arrivando a quota 260, quindi una maggioranza confortevole. Tra le vittime eccellenti c'è la senatrice Elizabeth Dole, ex ministro, moglie dell'ex candidato presidenziale Bob Dole, che è stata battuta in North Carolina. Inoltre, tra le curiosità, vi segnalo che poiché Obama e il suo vicepresidente Biden sono entrambi senatori, dovranno rinunciare alla loro carica. Grazie Valentina Furlanetto. E sicuramente a festeggiare è stata Chicago, la città adottiva di Barack Obama. Lì c'era anche il nostro inviato. La storia non si scrive con i se. Lo ha capito bene John McCain, che dall'altro capo dell'America, nel sud dell'Arizona, ha sentito arrivare l'onda sonora, sempre più potente e fragorosa, delle urla di gioia delle centinaia di migliaia di sostenitori di Barack Obama, assiepati come non mai nel perimetro cittadino di Grant Park. Chicago non ha mai dubitato, neppure per un istante, della vittoria del suo figlio adottivo Barack, quel giovane dal nome strano, arrivato qui una prima volta oltre 20 anni fa per aiutare i più diseredati della zona povera del Southside, e tornato meno di 10 anni dopo per sposare la sua Michelle e aiutare ancora una volta, in veste di avvocato, chi vive ai margini della società. Giovani, tanti giovani, persone di mezza età, anziani, neri, bianchi, latinos. A Grand Park stanotte c'era la Chicago dell'uomo della strada, la Chicago che incontri al caffè, al ristorante thailandese, al 7-Eleven o che più semplicemente incroci attraversando Michigan Avenue. Hanno atteso oltre 3 ore in piedi, dall'apertura dei cancelli con la corsa a prendere i posti in prima fila fino all'annuncio dei mega schermi che davano la prima proiezione ufficiale della CNN, Obama presidente. Hanno cantato l'inno nazionale, scandito slogan, ballato al ritmo dei frequenti intermezzi musicali, poi se ne sono stati zitti, interrompendolo solo con alcuni calorosi applausi per tutto il breve discorso di Obama, limitandosi solo a ripetere in coro, quasi ipnoticamente, quasi fosse una preghiera dei fedeli dal sapore laico, quello slogan Yes We Can, rievocato a ripetizione dal neopresidente. Infine, conclusa la cerimonia, hanno arrotolato le bandiere, ballato ancora un po' e ripreso la via di casa. La gente di Chicago è la migliore risposta a chi si ostina a sostenere che Barack Obama è un'entità astratta, un messaggero senza messaggio. Obama è uno di loro. È per questo che, da presidente, avrà qualcosa da dire all'America e al mondo. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore, Chicago. Nel servizio del nostro inviato si accennava al discorso pronunciato da Barack Obama. Fra poco vi faremo sentire un estratto di questo discorso, ma ora, Anna, andiamo a Mosca. Andiamo, sì, a Mosca, dove a parlare quest'oggi è stato un presidente già insediato. Il presidente Medvedev ha tenuto il suo primo discorso alla nazione, facendo ovviamente anche un accenno al risultato elettorale americano. Ma sentiamo cosa ha detto. Для защиты нашей экономики от внешних рисков уже многое было сделано. Не зря мы накапливали золотовалютные. Prima di tutto il Caucaso. La Russia non si ritirerà. Poi la crisi finanziaria internazionale che, dice Medvedev, indica la necessità di riformare il sistema politico ed economico nel mondo. Così, con piglio sicuro in un discorso senza troppi fronzoli davanti alle Camere riunite, il nuovo presidente della Russia sostiene, il neo capo del Cremlino, che la Russia, assieme a Stati Uniti e Unione Europea, farà tutto il possibile per rendere il mondo più giusto e più sicuro. Si spera, aggiunge poi, che l'America di Obama porti respiro nuovo nei rapporti bilaterali. Poco prima il neopresidente russo aveva aspramente criticato la politica estera di Bush, definendola presuntuosa e responsabile della tragedia in Ossezia. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora in Italia, dove a Roma un uomo ubriaco è investito con la sua auto alla una fermata dell'autobus, ferendo così diverse persone. Sentiamo com'è andata. Ho tentato di schivare un passante, poi ho perso il controllo dell'auto e ho travolto quelle persone. Si è giustificato così Bruno Radosavljevic, il nomade di 26 anni, la cui nazionalità non è ancora accertata, che stamani ad Acilia, la periferia di Roma, ha travolto 13 persone mentre aspettavano l'autobus. Saranno ora i rilievi, insieme alle testimonianze, a fare luce sull'esatta dinamica di quanto accaduto. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di frenata sull'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Dei 13 investiti, 9 sono stati portati all'ospedale. 3 di loro sono gravi, tra cui un ragazzo di 14 anni. Dopo l'impatto, la folla inferocita ha tentato di aggredire l'investitore e soltanto l'intervento dei vigili urbani ha evitato il peggio. L'uomo è stato subito fermato e portato in ospedale ad Ostia per i test sull'eventuale assunzione di alcol o droga. Aggredito dai familiari di un ferito, anche il padre del nomade che aveva raggiunto il figlio nella struttura sanitaria. Nel febbraio scorso, nei pressi di Fiumicino, lo ricordiamo, un'auto finì su un gruppo di persone che attendeva lo scuola bus. Morirono 3 bambine e 2 donne. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Torneremo, come abbiamo detto, tra poco ancora a parlare degli Stati Uniti, ma come sempre, prima di chiudere questa prima parte di Extra Large, parliamo anche d'altro. Avete un cane, un gatto, volete portarlo con voi in vacanza? È stato attivato, ebbene, un sito internet per cercare gli hotel che ospitano gli animali. Sentite. Gli alberghi trovano una cuccia anche per i nostri amici a quattro zampe. Non abbiamo più scuse e i soliti problemi se partiamo con cane o gatto al seguito. Da oggi basta un click e fin dalle prossime vacanze di Natale potremo essere davvero inseparabili. Ci ha pensato Federalberghi Confturismo, che ha creato un sito dove trovare strutture ricettive che ospitino anche gli animali. www.pets-hotels.it E c'è un fine nobile dietro la possibilità di scegliere l'albergo adatto, come spiega Alessandro Cianella, direttore generale di Federalberghi. Ben 11.000 strutture alberghiere, quindi un terzo del totale, grosso modo, hanno dato la propria disponibilità ad accogliere i piccoli animali domestici. Si aiuta ad evitare che questi animali spesso vengano abbandonati. Gli alberghi che accettano animali dalla piccola taglia in su forniscono indicazioni su costi e sistemazione fin da ora. Anna Marino, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13 e 14 minuti, le notizie di oggi extra large. Commenti da tutto il mondo per le elezioni di Barack Obama, 44esimo presidente americano. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano parla di un grande giorno. Il francese Sarkozy la definisce una vittoria brillante. Il palestinese Abu Mazen invita Obama ad accelerare gli sforzi per la pace. Incidente a Roma, probabilmente ubriaco alla guida. Un uomo romeno ha perso il controllo dell'auto e ha travolto questa mattina 13 persone che erano alla fermata dell'autobus ad Acilia. 9 sono ancora in ospedale. Lo Stato garantirà la ripresa dei lavori per il corridoio 5 anche attraverso l'uso della forza, parola di Silvio Berlusconi, che ha aggiunto: una minoranza organizzata che pretende di fermare un cantiere, un'autostrada, non è espressione di democrazia. Caro prezzi, calerà ancora il costo degli alimentari, il rallentamento non è finito, ha detto questa mattina Gian Domenico Auricchio, il presidente di Federalimentari. Non abbiamo mai fatto speculazione, ha aggiunto. Si terrà venerdì a Nairobi il vertice internazionale della crisi sulla situazione in Congo. Al summit ci saranno i capi di stati e di governo della regione, i rappresentanti delle Nazioni Unite. Intanto i combattimenti fra ribelli e miliziani filo governativi sono ripresi già all'alba di oggi. 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è il primo nero ad entrare alla Casa Bianca. Di lui si è detto molto in questi mesi di campagna elettorale e in questa lunga notte. Di certo sono già storici alcuni dei suoi discorsi. Davanti a folle oceaniche ha pronunciato sempre parole di grande impatto e lo ha fatto anche la scorsa notte a Chicago, il primo discorso da ormai eletto presidente degli Stati Uniti. Ve lo facciamo riascoltare un pezzettino. Hello Chicago! Buonasera Chicago! If there is anyone out there who still doubts, se c'è ancora qualcuno là fuori che dubita che l'America sia un luogo in cui tutto è possibile, che si domanda se è ancora vivo il sogno dei nostri padri fondatori, che ha ancora dei dubbi sul potere della nostra democrazia, questa notte è la vostra risposta. Tonight is your answer. It's the answer told by lines that stretch around schools and churches. È la risposta delle persone in fila attorno alle scuole, alle chiese, numeri che la nostra nazione non ha mai visto. Persone che hanno aspettato 3-4 ore, in molti per la prima volta nella loro vita, perché credevano che questa volta le cose sarebbero state diverse, che le loro voci avrebbero fatto la differenza. È la risposta dei giovani e dei vecchi, dei ricchi e dei poveri, dei democratici e dei repubblicani, neri, bianchi, ispanici, asiatici, nativi americani, omosessuali, eterosessuali, disabili e non disabili, americani che hanno mandato un messaggio al mondo dicendo che non siamo mai stati solo una collezione di individui o di stati rossi e blu. Siamo e saremo sempre gli Stati Uniti d'America. A little bit earlier this evening, I received an extraordinarily gracious call from Senator McCain. Questa sera ho ricevuto una telefonata straordinariamente gentile dal senatore McCain. Il senatore McCain ha combattuto a lungo e strenuamente in questa campagna e ha combattuto ancora di più e più duramente per un paese che ama. ha sopportato sacrifici per l'America che la maggior parte di noi non riesce nemmeno a immaginare. Siamo tutti migliori grazie a tutto quello che ha fatto quest'uomo coraggioso e altruista. Mi congratulo con lui e con il governatore Palin per tutto quello che hanno ottenuto. E desidero davvero lavorare insieme a loro per rinnovare la promessa che abbiamo fatto mesi fa a questa nazione. I want to thank my partner in this journey, a man who campaigned from his heart. Voglio ringraziare il mio compagno in questa avventura, un uomo che ha condotto una campagna col suo cuore e ha parlato per le donne e gli uomini con cui è cresciuto nelle strade di Scranton e con cui ha percorso il suo viaggio verso il Delaware, il vicepresidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden. And I would not be standing here tonight without. E non sarei qui stanotte senza il fermo aiuto della mia migliore amica negli ultimi 16 anni, la roccia della nostra famiglia, l'amore della mia vita, la prossima First Lady, Michelle Obama. The nation's next First Lady, Michelle Obama. Sasha and Malia. Sasha e Malia, vi amo più di quello che potete immaginare. E vi siete guadagnate il cucciolo che ci porteremo nella Casa Bianca. The new puppy that's coming with us to the White House. And while she's no longer. Anche se non è più con noi, so che la mia nonna ci sta guardando dall'alto, insieme alla famiglia che mi ha reso chi sono. Stanotte mi mancano moltissimo. So che il mio debito nei loro confronti è oltre ogni limite, ma soprattutto non dimenticherò mai le persone a cui appartiene veramente questa vittoria. Appartiene a voi, appartiene a voi. Questa è la nostra vittoria. Vi siete impegnati perché capite l'enormità del compito che abbiamo di fronte. Stanotte stiamo celebrando, ma sappiamo che le sfide di domani saranno le più grandi del nostro tempo. Due guerre, un pianeta in pericolo, la peggiore crisi finanziaria dell'ultimo secolo. Anche se questa notte siamo qui, sappiamo che ci sono americani coraggiosi che si svegliano nel deserto dell'Iraq e nelle montagne dell'Afghanistan per rischiare le loro vite per noi. Ci sono madri e padri che staranno svegli mentre i loro bimbi si addormentano tranquilli e si chiedono come riusciranno a pagare il mutuo o il conto del dottore, oppure come potranno mettere via dei risparmi per la scuola dei ragazzi. C'è una nuova energia da veicolare, nuovi lavori da creare, nuove scuole da costruire, nuove minacce a cui andiamo incontro, alleanze da ricostruire. La strada davanti a noi è lunga, la salita è ripida. Forse non arriveremo in cima in un anno e forse nemmeno in una legislatura. Ma, America, non ho mai avuto tante speranze come questa sera. Vi prometto che ci arriveremo insieme, come un popolo. Ci saranno battute d'arresto e false partenze. In tanti non saranno d'accordo con ogni mia decisione da presidente. E sappiamo che i governi non possono risolvere ogni problema. Agli americani di cui devo ancora guadagnare la fiducia dico: forse non ho avuto il vostro voto questa notte, ma sento le vostre voci. Ho bisogno del vostro aiuto e sarò anche il vostro presidente. And I will be your president too. And all those watching. A tutti coloro che questa notte ci guardano da oltre i nostri confini, dai parlamenti e dai palazzi, a coloro che sono raccolti davanti alle radio in angoli dimenticati del mondo, dico: le nostre storie sono personali, ma il nostro destino è condiviso ed è vicina una nuova alba della leadership americana. To those who would tear the world down. Per coloro che vogliono distruggere il mondo, vi dico: vi sfideremo. Per coloro che cercano pace e sicurezza, vi dico: vi sosterremo. E a tutti coloro che si chiedono se la fiamma dell'America brucia ancora, rispondo: questa notte abbiamo provato ancora una volta che la vera forza della nostra nazione non viene dalla forza delle nostre armi o dal peso della nostra ricchezza, ma dal potere dei nostri ideali: democrazia, libertà, opportunità e ferma speranza. That's the true genius of America. Questo è il vero talento dell'America, che l'America sa cambiare. È il nostro momento per rimettere la nostra gente al lavoro e aprire le porte delle opportunità ai nostri bambini, per ripristinare la prosperità e promuovere la causa della pace, per riprenderci il sogno americano e riaffermare la verità fondamentale che in tanti noi siamo una cosa sola, che mentre respiriamo, speriamo. E che quando gli altri sono cinici e dubbiosi e ci dicono che non ce la potremo fare, risponderemo con quella professione di fede senza tempo che riassume lo spirito di un popolo. Sì, possiamo. Grazie. Dio vi benedica. E Dio benedica gli Stati Uniti d'America. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. E così dunque il discorso di Barack Obama a Chicago, la sua città, subito dopo aver appreso che era stato eletto, che è stato eletto presidente degli Stati Uniti d'America. È un lungo discorso, secondo tradizione, spettato anche al suo rivale John McCain, che si è congratulato con Obama. Thank you, my friends. Grazie a tutti, amici, per essere qui in questa fantastica notte in Arizona. Cari amici, siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio. Il popolo americano si è pronunciato e lo ha fatto in modo chiaro. Poco fa ho avuto l'onore di chiamare il senatore Barack Obama per congratularmi con lui per essere stato eletto quale nuovo presidente del paese che noi tutti amiamo. Nel difficile contesto in cui si è svolta questa campagna elettorale, il suo successo in solitaria si è guadagnato il mio rispetto per la sua abilità e la perseveranza. È riuscito a fare ciò, ispirando la speranza in molti uomini d'America che una volta erano convinti di avere poca influenza nell'elezione del presidente degli Stati Uniti. È una cosa che io ammiro profondamente e lo applaudo per esserci riuscito. Questo è un caso di storia. Riconosco il significato particolare che questo ha per gli africani d'America e l'orgoglio speciale che c'è stasera. I giornali italiani oggi in edicola, inevitabilmente per una questione di fuso orario, non hanno riportato con chiarezza la vittoria di Barack Obama, quindi sono stati tutti titoli abbastanza prudenti, anche se era evidente che il candidato democratico potesse vincere questa tornata elettorale. Chi invece si è sbilanciato di più sono stati i vignettisti, come sempre accade in queste occasioni. E allora prendiamo per esempio la vignetta di Giannelli sul Corriere della Sera. C'è Barack Obama, ma ha letto con la moglie, e la moglie che gli dice: hai fatto un sogno? E Barack Obama che risponde: ma che, non sono riuscito a dormire. In qualche modo bipartisan e cattivelle le battute sull'unità di Maramotti e Staino, e riguardano le reazioni italiane al voto negli Stati Uniti. Anche qui sbilanciati vignettisti che davano praticamente per certa la vittoria di Obama. Maramotti: c'è un Berlusconi che cerca di dire amico Obama, ma co abima, insomma è inutile, non ce la farò mai a dire amico Obama. E Staino invece, cattivello col Partito Democratico, il personaggio classico con i figli. La figlia chiede: la vittoria di Obama sarà utile al PD? Molto, forse non quanto se ne andasse la Binetti, ma molto. Insomma, di reazioni cattivelle. Esattamente, cattivelle queste vignette di Staino, delle reazioni che ha provocato la vittoria di Barack Obama in Italia. Parleremo più avanti, intorno alle 13.45. Vi anticipiamo solo che ci sono delle parole pronunciate questa mattina dal capogruppo del PDL al Senato Gaspari che stanno creando fortissime polemiche. In sostanza ha detto: con Obama alla Casa Bianca, Al-Qaeda è più contenta. 13:33 minuti a GR 24 Extra Large, le notizie di oggi. In America nulla è impossibile, così Barack Obama nel primo discorso da neoeletto presidente degli Stati Uniti. Davanti alla folla a Chicago ha citato Lincoln e teso la mano ai repubblicani. Obama ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, circa il 52%, con un vantaggio di 6 milioni di consensi sul suo avversario. Vince Obama, Al-Qaeda è più contenta, così il commento di Maurizio Gasparri, ed è già polemica. Incidenti a Roma, probabilmente ubriaco alla guida, un uomo ha perso il controllo dell'auto che guidava e ha travolto questa mattina 13 persone che erano alla fermata dell'autobus nella borgata di Acilia. 9 persone sono ancora ricoverate in ospedale. Il governo varerà la prossima settimana il provvedimento che darà un sostegno ulteriore al mondo delle banche, quanto annunciato dal Premier. Lo Stato, ha detto Berlusconi, non entrerà negli istituti bancari come in altri paesi, ma potrà farlo se ce lo chiedono. Caro prezzi, calerà ancora il costo dei generi alimentari, almeno questo quanto dice Gian Domenico Auricchio. Il rallentamento non è finito, così dice il presidente di Federalimentari. Non abbiamo mai fatto speculazione. Un gruppo armato ha rapito in Somalia 4 stranieri di un ONG per gli aiuti umanitari, rapiti anche i 2 piloti che li accompagnavano. Le borse, lo avete sentito poco fa nel consueto appuntamento di Che Borsa Fa, hanno un andamento ancora interlocutorio in Europa. Ci riferiamo anche alle reazioni per quanto riguarda l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti. La notizia che tocca le tasche di molti è anche che i tassi interbancari denominati in euro scendono ancora. L'Euribor, sul quale si calcolano, lo sapete, i mutui, sulla Euribor con scadenza a 3 mesi, è sceso ancora di 4 punti base al 4,66%, è il livello più basso dal 18 marzo scorso. Le elezioni però del presidente degli Stati Uniti naturalmente ci fanno pensare anche alla politica economica che porterà avanti il nuovo inquilino della Casa Bianca. Buongiorno Fabrizio Galimberti. Buongiorno a tutti. Editorialista, commentatore del Sole 24 Ore. Allora, quali sono le attese? Che cosa ci si aspetta da Barack Obama dal punto di vista della politica economica? Beh, direi che ci si aspettano 2 cose. La prima cosa è il fatto di avere rimosso un fattore di incertezza, anche se la sua vittoria era abbastanza sicura. Quando questa vittoria diventa evidente e concreta, vuol dire che c'è più certezza sui mercati e i mercati amano le certezze. Oltre ad amare le certezze, amano anche avere fiducia. Da questo punto di vista, questa ventata e offerta di cambiamento che porta Obama è senz'altro un fattore positivo, anche perché, e qui andiamo sul concreto, lui ha detto chiaramente che vuole mettere in opera un altro pacchetto di sostegno con la politica di bilancio. Questa volta la politica monetaria ha fatto moltissimo, sia dal punto di vista della liquidità che dal punto di vista dei tassi di interesse. I tassi guida sono tornati all'1%, faticosamente il mercato monetario ricomincia a funzionare, anche i tassi interbancari del dollaro sono di nuovo in discesa, anche se ancora distanti da quell'1% che sono i tassi. Insomma, i segnali centrale. Primissimi segnali positivi ci sono, ma Fabrizio, d'altra parte, diciamo, dei due Obama è quello che aveva il programma tra virgolette più costoso. Secondo te sarà il presidente adatto ad affrontare questa crisi? Secondo me sì, senz'altro è più adatto di McCain, che si portava appresso il bagaglio della eredità di Bush, un bagaglio che, anche se lui avrebbe voluto evitare, era inevitabilmente identificato con lui. Obama rappresenta il cambiamento, rappresenta la voglia di cambiare pagina, e da questo punto di vista i suoi programmi saranno anche costosi, ma credo che abbia l'intelligenza di applicarli con gradualità e di aspettare che ritorni la crescita in modo da renderli più sopportabili. Grazie Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore. Staremo anche a vedere più tardi come aprirà Wall Street, segnale importante per vedere la reazione quindi della borsa americana all'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti. Formalmente Barack Obama entrerà in carica il 20 gennaio, dovrà dunque attendere ben 77 giorni. Gli elettori hanno scelto i cosiddetti grandi elettori, ma il potere arriverà nelle mani di Barack Obama solo il 20 gennaio. In questo lasso di tempo continua dunque a governare ancora George Bush. Sentiamo quali sono le sfide che l'attendono. Vista l'esperienza del passato, le squadre per la transizione sono pronte già da tempo. Il passaggio Clinton-Bush, infatti, fu disastroso. Con le forze armate americane impegnate su vari fronti e con la crisi economica in atto, invece, non c'era tempo da perdere. Grazie a una nuova legge, quindi, l'FBI ha già compiuto gli accertamenti di routine sui membri dei due transition team e il presidente Bush ha istituito un mese fa un consiglio di coordinamento della transizione, diretto da due ex capi di gabinetto, un democratico e un repubblicano. Non è mai compito facile quello del team di transizione e tantomeno lo sarà questa volta. Nei primi 100 giorni Obama intende infatti stabilire le tappe del varo di un secondo piano di stimolo fiscale e decidere come muoversi per il ritiro dall'Iraq. Poi bisogna uscire dalla crisi dei mercati e preparare il budget per il primo anno di amministrazione con misure forse impopolari. Capo del team di Obama è John Podesta, ex coordinatore dello staff di Bill Clinton, una nonna greca e un nonno ligure, perché con Obama il melting pot è assicurato. Laura Bettini, GR24, il Sole 24 Ore. Politica economica internazionale a parte, ci sono poi anche i riflessi concreti e uno di questo è l'aumento dei prezzi, soprattutto dei generi alimentari per quanto riguarda l'Italia. Oggi a parlare è stato il presidente di Federalimentare, Gian Domenico Auricchio. Nessuna speculazione, ha detto oggi, sui prezzi degli alimentari, che anzi continueranno a calare. Eccolo al microfono di Chiara Di Michele. Credo poco nella regolazione da parte dei prezzi. Il prezzo è il mercato che lo fa e, come dicevo prima, con un senso di grande responsabilità le aziende, che hanno sempre dimostrato, sia con quell'effetto calmieratore, le aziende fanno i prezzi in base alle effettive esigenze della qualità del rapportata alla qualità del prodotto, alle esigenze delle aziende. Cioè, io non credo che ci siano aziende non solo che abbiano speculato, anzi sono certo, ma anche che fanno dei prezzi che non siano strettamente correlati alla intrinseca composizione del valore del prezzo del loro prodotto. Una vignetta del Corriere, una vignetta di Francesconi ci introduce al tema della sanità. C'è una donna in un ospedale o in una ASL, anzi è precisato ospedale San Carlo, in coda e paga con delle banconote in euro un funzionario. E sulla scrivania di questo funzionario c'è un cartello molto chiaro dove è scritto ticket anticipato per le visite entro il 2009. Soldi finiti, insomma, per le strutture sanitarie convenzionate, pazienti costretti a pagare analisi ed esami per intero, oppure a rivolgersi al pubblico con lunghe attese. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato il caso Campania e il caso Sicilia. Oggi andiamo invece in Puglia, perché Roberta Pellegatta ha intervistato Angelo Giovine, presidente della Puglia, dell'ANISAP, l'Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private. Succede anche in Puglia, perché negli ultimi anni in realtà la domanda di prestazioni sanitarie in generale in Italia è aumentata, mentre è stato praticamente fissato un tetto per struttura che è rimasto in realtà rigido agli anni scorsi. Una volta raggiunto il tetto di spesa, i pazienti devono o possono recarsi presso le strutture pubbliche, che a questo punto risultano ingolfate di esami, perché oltre a eseguire gli esami per i loro interni, faccio esempio degli ospedali, devono far fronte anche a questa forte richiesta di esami proveniente dal territorio. Noi abbiamo detto ai signori dell'ASL: conteggiate cosa costa a voi fare quelle prestazioni, perché comunque hanno un costo. Noi le potremmo fare allo stesso costo, se non addirittura a costi inferiori, sollevando la popolazione da tutti i disagi, perché lei sa che gli ospedali sono quasi sempre decentrati rispetto al centro città. Questo sta capitando quest'anno oppure... No, è capitato anche negli anni scorsi. Si va avanti così da diversi anni. Cosa succede in pratica? Che ad esempio voi arrivate a un determinato mese dell'anno, azzardo a settembre, e poi per ottobre, novembre, dicembre non ci sono più prestazioni se non a pagamento pieno, oppure spalmate le visite durante l'anno, le diluite, le rimandate? In realtà i contratti che noi firmiamo con le ASL prevedono di distribuire il tetto di spesa nell'arco dei 12 mesi, però si rende conto che non è possibile, perché se c'è una forte richiesta non possiamo mandarli mica tutti indietro, sennò qui succederebbe, se no veniamo linciati dalla popolazione. E verso che mese più o meno si esaurisce il tetto? Settembre, la data giusta, settembre. In fondo al male, l'edizione di quest'anno di Umbria Libri, che si apre oggi e termina domenica, ha scelto di indagare con scrittori e filosofi cosa ci sia dietro il male. Tutto questo in una città, Perugia, che nell'ultimo anno è stata al centro delle cronache per l'omicidio di Meredith Kircher. Una delle organizzatrici, Edie Peterle, ci spiega qual è la particolarità di questa manifestazione letteraria. Umbria Libri si distingue da tutti gli altri festival che ormai, diciamo, imperversano in tutta la nostra nazione perché ha un connotato particolare ed è la mostra mercato degli editori umbri. Intorno a questa mostra mercato che da 14 anni facciamo per dare visibilità a questa piccola editoria, piccola ma di grande significato storico, noi creiamo ogni anno un tema particolare, un tema accattivante che possa catturare l'attenzione di un pubblico che non sia locale. Quest'anno il tema è In fondo al male. Lei sa che comunque Perugia in questi giorni necessariamente è stata la ribalta per queste tematiche, no? E la cosa che ci interessava era soprattutto andare un po', diciamo, a sondare tutti gli aspetti del male, partendo praticamente da Unde malum, la famosa frase di Sant'Agostino, e le motivazioni da cui scaturisce il male. Infatti in programma ci sono degli incontri filosofici che riguardano appunto il male, ci sono anche addirittura volumi di editori umbri che trattano questi temi. 13:46 minuti, le notizie di oggi extra large. Vince Obama, Al-Qaeda è più contenta. Questo è il commento di Maurizio Gasparri ed è già polemica. In America nulla è impossibile. Barack Obama nel primo discorso da neoeletto presidente degli Stati Uniti tende la mano ai repubblicani. Ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, circa il 52%, con un vantaggio di 6 milioni di consensi sul suo avversario. Lo Stato garantirà la ripresa dei lavori per il Corridoio 5 anche attraverso l'uso della forza, parola di Silvio Berlusconi che ha aggiunto una minoranza organizzata che pretende di fermare un cantiere a un'autostrada non è espressione di democrazia. Incidente a Roma, probabilmente ubriaco alla guida, un uomo ha perso il controllo dell'auto che guidava e travolto 13 persone che erano alla fermata dell'autobus ad Acilia, 9 ancora in ospedale. Avete sentito dunque poco fa dai nostri titoli anche l'uso della forza per realizzare alcune opere come i trafori alpini e poi ci sono anche stanziamenti per i mezzi di trasporto meno inquinanti. Queste sono alcune delle cose annunciate questa mattina da Silvio Berlusconi al Salone del Ciclo e Motociclo a Milano. Paolo Piacenza, tu eri lì. Allora, che cosa ha detto il Presidente del Consiglio? Sì, buongiorno. Silvio Berlusconi ha colto l'occasione della 66esima edizione dell'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano per parlare a 360 gradi dell'azione di governo. Di fronte aveva una platea di imprenditori, operatori del settore che sono ovviamente preoccupati per le difficoltà crescenti. In Italia si registra nei primi 10 mesi un calo del 4-6% di immatricolazione delle moto, mentre per il ciclo si stima un calo finale al 2008 tra il 10 e il 15%. Il Premier ha ribadito l'impegno del governo di fronte alla crisi, ha annunciato che la settimana prossima l'esecutivo varerà un provvedimento unitario a sostegno di banche, imprese e famiglie. Nessuna anticipazione sul merito delle misure a sostegno delle famiglie, mentre per il settore del credito ha ribadito l'intenzione di appoggiare l'orientamento internazionale affinché le banche che abbiano ricevuto aiuti non solo mantengono ma crescono il loro monte crediti verso famiglie e imprese. Berlusconi ha anche anticipato che una grande banca italiana lancerà a breve un fondo da 5 miliardi per i prestiti alle piccole e medie imprese. Per il settore automoto, come avete detto voi, ha confermato 13 milioni per le agevolazioni per i mezzi non inquinanti, poi grande spazio al tema infrastrutture. Il Premier ha parlato di 16 miliardi per rilanciarle, ma anche l'annuncio che sarà usata la forza per garantire l'avvio dei lavori sui trafori alpini in particolare. Altri temi, il tema della scuola, Berlusconi ha detto che sul decreto di Gelmini c'è stata disinformazione, ha parlato del movimento come di una minoranza, infine una battuta feroce contro la TV dove ha detto i conduttori dei programmi di intrattenimento sono appecoronati sulle posizioni della sinistra. E un altro tema c'è da aggiungerlo, Paolo, naturalmente il commento al risultato elettorale americano non è mancato. Sì, infatti, proprio arrivando qui a Fiera, il Presidente del Consiglio non ha fatto mancare la sua battuta sulla elezione di Barack Obama. Sentiamo. Gli ho fatto le congratulazioni per l'affermazione che ha ottenuto dopo una campagna a cui tutti abbiamo assistito da vicino, che è stata certamente difficile ed anche dura, e gli auguri veramente cordiali, sinceri, per poter affrontare al meglio l'alta responsabilità che lo attende. Consigli, come sapete, dovrei dargliene perché sono molto molto più anziano, ma aspetto a dargliene quando lo incontrerò e lo abbraccerò di persona. Grazie a Paolo Piacenza, collegato con noi dal Salone del Ciclo e Motociclo di Milano. Veniamo ora alle altre reazioni politiche, sempre per quanto riguarda il nostro paese. A cominciare dal ministro degli esteri Franco Frattini. Gli Stati Uniti sono e saranno il primo partner internazionale dell'Italia. Per quanto riguarda la politica estera del nuovo inquilino della Casa Bianca, Frattini è intervenuto questa mattina nella trasmissione Viva Voce al microfono di Alessandro Milan. Sentiamolo. L'Iraq è paradossalmente più vicino a riprendere in mano il futuro, il proprio futuro, la propria sicurezza. L'Afghanistan è più lontano, quindi una strategia d'uscita dall'Iraq oggi è immaginabile. Infatti il presidente Bush l'ha negoziata con il governo iracheno. In Afghanistan dobbiamo fare di più. Io lo dico con grande franchezza, l'Europa che festeggia Obama deve sapere che l'Europa sarà chiamata ad essere produttore di sicurezza e non più soltanto consumatore di sicurezza. In altri termini, Obama credo giustamente ci chiamerà ad assumere le nostre responsabilità in misura maggiore. Ma anche con, vuol dire, maggiore numero di soldati, per esempio? Ma l'Italia a questo punto ha le carte in regola, siamo tra i paesi che impegnano più uomini, ci sono però paesi europei che questo non l'hanno fatto. Io direi di sì, sarà il momento per questi paesi di dimostrare una solidarietà atlantica come l'ha fatto l'Italia. Fra gli esponenti della maggioranza che hanno commentato l'esito del voto elettorale americano ci sono le parole di Maurizio Gasparri, capogruppo del PDL al Senato, rilasciate alla GR3, dichiarazioni che stanno facendo discutere. Sentite un po'. Sul piano della lotta al terrorismo internazionale dovremo vedere Obama alla prova. Su Obama gravano molti interrogativi. Con Obama alla Casa Bianca, Al Qaeda forse è più contenta. E parole davvero che stanno già suscitando un gran polverone. Tra i vari commenti anche un messaggio al neopresidente americano inviato da Walter Veltroni. La sua vittoria può cambiare il mondo, ha scritto il leader del Partito Democratico, che ha poi anche commentato così. Per il mondo cambierà moltissimo perché ci saranno gli Stati Uniti che non saranno più quelli di Guantanamo, ecco, ma saranno gli Stati Uniti che torneranno a esercitare quella grande leadership morale che hanno avuto nei momenti più alti della storia, anche del secolo passato, e coltiveranno il multipolarismo e non l'idea di essere i gendarmi del mondo. Ci chiameranno come Europa ad assumerci maggiori responsabilità. Ancora commenti, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano parla di un grande giorno e di nuovi motivi di speranza. Per il Presidente della Commissione Europea Barroso l'elezione di Obama è un punto di svolta per gli Stati Uniti e può esserlo per il mondo intero. Da Parigi Sarkozy parla di vittoria brillante, mentre il Premier britannico Gordon Brown saluta in Obama i valori progressisti. E dagli Stati Uniti un commento eccellente, quello di Colin Powell. Colin Powell, ex segretario di Stato repubblicano, che proprio la settimana scorsa aveva deciso di appoggiare Obama e che oggi ha detto: Obama non ha vinto proponendosi come afroamericano, ma perché si è proposto semplicemente come americano. E poi c'è il Medio Oriente. Il governo israeliano ha fatto sapere che dopo la vittoria del candidato democratico le relazioni tra i due paesi hanno un futuro positivo. Il presidente palestinese Abu Mazen ha invitato Obama ad accelerare gli sforzi per la pace, mentre l'agenzia iraniana IRNA saluta l'elezione parlando di una catarsi del popolo americano che ha ripudiato l'era Bush. Ovviamente poi c'è anche l'Africa, continente dal quale arrivano le origini di Obama. E in Kenya, paese d'origine di Obama, per domani il presidente ha proclamato una giornata di festa nazionale. E quattro operatori umanitari di una ONG e due piloti di un aereo che li accompagnavano sono stati rapiti oggi nella Somalia centrale da persone armate. Due dei rapiti sono francesi, poi c'è un belga e un bulgaro. Sempre dall'Africa, altre notizie importanti quest'oggi riguardano ovviamente la crisi del Congo. Si terrà venerdì a Nairobi il vertice internazionale sulla situazione. Ci saranno i capi di Stato e di Governo della regione, ma anche i rappresentanti delle Nazioni Unite. Oggi è ancora giornata cruciale. I combattimenti tra ribelli e miliziani filogovernativi sono ripresi già prima dell'alba nella provincia del Nord Kivu. In questi giorni vi abbiamo parlato molto delle proteste degli studenti, quelli dei licei contro il decreto Gelmini e quelle degli universitari contro la legge 133 che prevede forti tagli ai fondi per gli atenei. Bene, oggi alcuni universitari hanno cercato una sorta di appoggio per la loro protesta, prima fra i lavoratori della CGIL, poi fra i dipendenti di Alitalia. Francesca Malaguti, cosa è successo? Buongiorno, io mi trovo a Fiumicino, esattamente nella zona mensa, e fino a poco fa un centinaio di studenti della Sapienza ha manifestato qui e volantinato ai dipendenti di Alitalia, al grido di tutti insieme la stessa crisi. Gli studenti stanno cercando dunque una saldatura con i dipendenti di Alitalia e anche con i lavoratori. Lo avete detto questa mattina, alcuni di loro sono andati al convegno dei dirigenti della CGIL che è in corso all'EUR a distribuire volantini e lì hanno chiesto al sindacato di unirsi a loro in uno sciopero che rappresenti tutte le categorie colpite dalla crisi. Dalla zona mensa dove mi trovo ora gli studenti si sono poi recati alle partenze e agli arrivi e hanno distribuito altri volantini ai dipendenti all'Italia. Tra poco invece qui ci sarà l'assemblea delle sigle dei piloti del fronte del no che dovranno ora elaborare una risposta all'out-out del governo che ha fatto sapere che i lavoratori che diranno no alla proposta di assunzione di CAI non beneficeranno degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge. Per il momento da Fiumicino è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Francesca Malaguti. Yes We Can, un uomo ha messo il piede sulla luna, il muro di Berlino è caduto, il cambiamento è arrivato, sono parole del nuovo presidente degli Stati Uniti. Barack Obama ha conquistato 349 grandi elettori, ha vinto anche in Florida e Ohio, i democratici avanzano anche al congresso. La collaborazione con gli Stati Uniti aumenterà, dice Berlusconi, per Veltroni una vittoria che può cambiare il mondo. Il governo israeliano fa sapere, le relazioni tra i due paesi hanno un futuro positivo. Con la vittoria di Obama, Al-Qaeda è più contenta, lo dice Maurizio Gasparri. La Russia non si ritirerà dal Caucaso, parole del presidente russo Medvedev nel primo discorso alla nazione. Realizzeremo i trafori alpini del corridoio 5 anche con l'uso della forza, dice il presidente del Consiglio, e sui trasporti aggiunge: stanzieremo 13 miliardi di euro per i mezzi meno inquinanti. Ubriaco travolge con la sua auto le persone ferme ad aspettare l'autobus a Roma, 13 i feriti. Ed è tutto per questa edizione di GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco ed Anna Migliorati, coordinamento di Maria Piera Ceci, Peter Abescapè in regia. È tutto per oggi, dunque prossimo GR alle 15, ci risentiamo domani con la GR Extra Large, sempre alle 13. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.